in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Abbiamo poco più di un minuto prima della pausa sul traffico, vi segnalo la prima pagina del Sole 24 Ore, è l'unico giornale che ci anticipa, e prima lo sappiamo forse meglio è, come si delineerà la manovra sui conti pubblici che ci aspetta quando i nostri parlamentari torneranno dalle loro ferie di circa 40 giorni. La manovra parte da 15 miliardi, è già prevista una proroga per l'iperammortamento, questo riguarda le aziende, ma ci saranno sicuramente anche molte novità e le trovate tutte a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore per tutti i contribuenti, quindi anche le persone fisiche. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche l'intervista che poi trovate a pagina 21 all'amministratore delegato di Unicredit. Ieri il titolo è stato tra i migliori in borsa, ha guadagnato il 7,2%, perché dopo la pesantissima ristrutturazione che ha anche comportato alti tagli del personale, il primo semestre si è chiuso con, pensate, 1,9 miliardi di soli utili. I ricavi sono leggermente calati, ma evidentemente è aumentata l'efficienza di questa banca. C'è poi, a proposito di banche, l'articolo di Cristina Casadei a pagina 13 che parla del piano di riorganizzazione di Monte dei Paschi di Siena. La banca è praticamente salva, intanto però sono ufficiali i primi 1200 esuberi e sono 4800 in totale le uscite di personale entro il 2021. Vi segnalo prima della pausa che oggi con il Sole 24 Ore, e poi lo ritroverete in edicola comunque se oggi non, per qualche ragione non lo trovate o non lo prendete, il numero di agosto di How to Spend It, che è il nostro magazine. La copertina è un osservatorio e il titolo è Vacanze stellate, non tanto per le stelle dell'albergo, ma suite a cielo aperto e astroviaggi. E all'interno tantissimi articoli un po' a tema così di viaggio, di sogno, di fuga, se vogliamo anche. E poi un bel incontro con Tullio Pericoli, grandissimo artista poliedrico. Il direttore di How to Spend It, Nicoletta Polla Mattiotto, lo ha incontrato. E tra le molte cose che Tullio Pericoli dice, tutti noi abbiamo a disposizione una doppia coppia di occhi, due sulla fronte e due nella mente. Tutto può succedere se ci si allena a spalancarli entrambi. L'incanto è sempre a portata di mano. Ci fermiamo un attimo solo per il traffico. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Abbiamo visto la prima pagina del Sole 24 Ore, ora quella del Corriere della Sera, che è dedicata alla Libia. E tra l'altro il Corriere della Sera, anche poi la vedremo, forse la mappa più chiara che ho visto in questi giorni, appunto sulla situazione della Libia, che è dove, come sapete, è anche difficile capire chi comanda. Ci sono di fatto due persone, Haftar e al-Sarraj. Haftar è il comandante delle forze militari che fanno capo a Tobruk, mentre al-Sarraj è formalmente il presidente del consiglio presidenziale e primo ministro formalmente del governo libico. Questa premessa e questa mappa la trovate a pagina 3 del Corriere della Sera, la mappa della Libia con le mini biografie dei due personaggi chiave, perché nei giorni scorsi l'abbiamo riportato anche noi, ma l'avrete sicuramente sentito nei GR e durante il giorno, Haftar ha minacciato di opporsi alle nuove regole di ingaggio anche della Marina Militare Italiana, in particolare per fermare le navi. E quindi l'ambasciatore nostro a Tripoli dice: le minacce alle navi, spiegheremo meglio la missione. Vi segnalo anche dalla prima pagina un'intervista che poi vedremo a Laura Boldrini, il presidente della Camera, che sostanzialmente dice, Laura Boldrini, lo ricordiamo, è stata eletta con il partito di Pisapia, quindi l'estrema sinistra, e ora dice Pisapia è il leader di questo possibile nuova aggregazione di sinistra che si unisce all'MDP, cioè ai fuoriusciti dal PD, con personaggi più noti di questa nuova formazione politica a sinistra sono naturalmente Bersani e D'Alema. E la Boldrini dice: Pisapia è il leader, ora discontinuità dalle politiche del PD. La fotonotizia però è bellissima, coloratissima, e è un reportage di Michele Farina dal Kenya. I guerrieri e i pastori Masai a scuola per ridurre le nascite. Nei villaggi del parco di Amboseli, in Kenya, i Masai, da sempre guerrieri e pastori, vanno a scuola per imparare a disinnescare la bomba demografica. Lezioni pratiche per controllare le nascite. La consegna di un libro si trasforma in una festa come rito alternativo alle mutilazioni genitali alle ragazze, che sono ancora molto diffusa in Africa e in Kenya in particolare. La Repubblica invece torna sulla questione del nuovo codice che disciplina il comportamento delle ONG nel Mediterraneo. Come sapete, è stata sequestrata la nave Jugendrettet tedesca. La nave tedesca spacca le ONG, perché c'è chi ha detto che in effetti, avendo violato le regole, questo nuovo codice, questa nave, il sequestro di questa nave era giustificato, e c'è chi invece dice che no, non era giustificato. Bruxelles dice: firmate, l'Unione Europea invita tutte le ONG a firmare questo codice, che, lo ricordiamo, è stato fortemente voluto e scritto sostanzialmente dal nostro Ministero degli Interni. Vi leggo sulla questione dell'immigrazione e di come cambiare gli interventi nel Mediterraneo per fermare i trafficanti di uomini. Vi leggo la maca di Michele Serra sulla prima pagina della Repubblica. Se la scelta fosse davvero tra salvare vite umane oppure no, l'intero dibattito sulla migrazione sarebbe chiuso seduta stante, perché è ovvio che salvare vite umane non è un'opzione, ma un dovere di civiltà e prima ancora un elementare istinto di umanità. Ben più utile, anche più utile a salvare vite umane, sarebbe valutare meglio i modi del soccorso e insieme i modi della successiva accoglienza, che sia dignitosa e non un vergognoso stivaggio a terra di uomini e donne scampati al mare, con tanto di lucro ai margini. E lavorare, possibilmente, non ogni paese per suo conto e non ogni ONG secondo il proprio statuto, ma stabilendo protocolli e intese, così come, pare, si stia finalmente cominciando a fare. Questo non basterà, già lo sappiamo, a tacitare il coro del «devi morire» che sale dagli spalti xenofobi, per i quali ogni uomo salvato è un invasore e uno scroccone, qualunque persona sia e qualunque sia la sua storia. Speriamo basti, però, a restituire alla politica e ai governi quel minimo di incisività e di capacità di fare le cose. Sarebbe poi questo il loro ruolo, e il ministro Minniti sembra essere uno di quelli che lo sa. Sapete, Minniti è il ministro degli interni del governo Gentiloni, prima era Alfano, e da quando è entrato in carica ha introdotto molti, molti cambiamenti, ha intensificato i rapporti con la Libia, perché si è ormai accertato che la maggior parte delle navi partono da lì. Quando si dice fermiamoli, bisogna fermarli idealmente non nel mezzo del Mediterraneo, ma appunto prima che partano da quelle coste, e quindi ci vuole la cooperazione del governo / governi, perché abbiamo visto quanto è difficile trovare un interlocutore in Libia, dei governi locali. Vi segnalo poi, e qui saluto con grande piacere un ascoltatore che ieri ha un po' frainteso, forse io non mi sono espressa bene, quello che ho detto di Hugo Pratt, perché ho detto che definire Corto Maltese un fumetto è forse riduttivo, più che altro perché fumetto in Italia, benché personaggi come Umberto Eco, uno dei più grandi intellettuali che l'Italia abbia avuto nel dopoguerra, benché Umberto Eco fosse un grande estimatore e lettore di fumetti, però il fumetto è considerato un po' una letteratura o un'arte così un po' minore. In realtà, come in tutte le arti, ci sono i picchi e magari ci sono dei volumi che non sono così belli. Hugo Pratt, in quanto illustratore o fumettista, che per me non sarà mai una un'espressione riduttiva, Hugo Pratt è sicuramente stato un grandissimo artista, e l'iniziativa della Repubblica di quest'estate parte oggi, l'abbiamo già annunciata ieri, e da oggi fino al 13 agosto c'è questo volume inedito, a puntate naturalmente, questa avventura inedita di Corto Maltese, in viaggio con Corto Maltese per tornare a sognare. Con La Repubblica, come ogni venerdì, anche Il Venerdì, il magazine della Repubblica. La copertina è dedicata alla Luna. La foto è una delle foto scattate nel 1969, quando ci fu appunto l'allunaggio. Il titolo però è Ristregati dalla Luna. Lei è sempre rimasta lì, ma dopo gli epici anni 70 le missioni spaziali l'avevano dimenticata. Oggi invece dagli americani ai cinesi tutti la vogliono. Ecco perché è tornata di moda. La Stampa, le telefonate ONG scafisti salvataggio a mezzanotte, queste intercettazioni dimostrerebbero che le accuse alla ONG tedesca, quella di trovare in qualche modo un accordo con alcuni scafisti per far sbarcare gli immigrati e poi ridare loro la nave, tra virgolette, la barca, l'imbarcazione sulla quale erano questi uomini e donne, effettivamente questa accusa parrebbe vera stando a queste intercettazioni. Vi segnalo dalla Stampa la fotonotizia impressionante di alcune persone, un uomo e una donna in particolare, che stanno già vendemmiando, perché per il caldo record nelle Langhe appunto la vendemmia è stata di parecchio anticipata. Il Messaggero titola sulla Libia: Haftar minaccia, l'Italia va avanti. La fotonotizia però è una foto scattata a Venezia, perché il 2 di agosto, io sono andata a leggermelo prima di andare in onda, mi era sfuggito, il 2 di agosto il New York Times ha pubblicato un articolo su Venezia, effettivamente non particolarmente lusinghiero. O meglio, ha messo in evidenza quello che poi in realtà si dice da più parti, tanto che il sindaco di Venezia stesso ha invocato il numero chiuso, almeno per esempio per Piazza San Marco, cioè che Venezia è invasa dal turismo e soprattutto dal turismo cosiddetto mordi e fuggi, o magari dalle persone che scendono dalle navi da crociera e si fermano soltanto un giorno. E secondo il Messaggero ha chiesto al regista Enrico Vanzina di commentare questo articolo del New York Times. Enrico Vanzina è molto critico, addirittura definisce il New York Times il guru e il custode globale del politicamente corretto. Non sono molto d'accordo con questa definizione, comunque questo è come sempre, insomma, a volte è un vantaggio vedere come ci vedono dall'estero, e però possiamo anche poi, siccome noi viviamo qui e molti di noi conoscono bene Venezia, anche vedere quali delle accuse sono giuste e quali quelle meno. Per esempio il fatto di definire Venezia una Disneyland. Qui giustamente Enrico Vanzina dice sì, almeno non è finta, perché sapete che gli americani, un esempio su tutti, a Las Vegas riproducono spesso le bellezze del mondo, e sono ovviamente delle riproduzioni dichiaratamente tali, ma che ovviamente non hanno niente a che vedere con l'originale. La Gazzetta dello Sport ve la segnalo perché in prima pagina ha naturalmente la notizia che avete sentito anche nel GR della vittoria del Milan, che così accede ai preliminari di Europa League, e poi però anche altre notizie di calciomercato, come per esempio la notizia che Geoffrey Condogbia è arrivato all'Inter nel 2015, adesso vorrebbe andare via, e poi un riferimento ai mondiali di atletica che iniziano oggi a Londra. Tra l'altro subito domani sera tocca già a Usain Bolt, che come avete sentito è alla sua ultima probabilmente apparizione ufficiale. E tra l'altro la Gazzetta oggi ha anche un supplemento, uno speciale di 12 pagine dedicato alla mountain bike. È sicuramente uno sport che è particolarmente adatto all'estate, e quindi questo speciale impazza la nuova moda della bici. L'Avvenire, fabbrica giù le armi. Perché questo titolo? Perché in Sardegna c'è un'organizzazione che vorrebbe riconvertire questa fabbrica di armi in una fabbrica che produca altro. E tra l'altro sappiamo appunto che l'Italia è uno dei più grandi esportatori di armi al mondo. Le armi naturalmente servono per fare la guerra. Per esempio si è scoperto che molte delle nostre bombe poi vengono usate per alcune guerre, molte delle armi made in Italy sono per esempio tristemente un ruolo nella guerra, per esempio in una delle guerre civili dimenticate, che è quella dello Yemen. L'Avvenire segue come sempre anche la vicenda che sta particolarmente a cuore all'Avvenire, che è quella delle regole sul gioco d'azzardo. pronta l'intesa sulle sale slot e ci sarà una firma a settembre. La Verità torna sul decreto concorrenza che è stato varato l'altro ieri, di cui ieri scrivevano i giornali. Abbiamo visto anche sul Sole 24 Ore divisi per settori tutti i provvedimenti. Secondo La Verità, assicurazioni, tutte le fregature nascoste nella nuova legge sulla concorrenza. Quindi La Verità è andata a spulciare un po' in particolare questo settore, quello delle assicurazioni, concludendo che questo decreto legge passato, come dice La Verità stessa, Aira GX, non è poi così conveniente per i consumatori. Il Fatto Quotidiano ha una specie di scoop politico, un retroscena. Ci sarebbe stato un vertice che Il Fatto definisce clandestino tra Matteo Renzi e Gianni Letta sul voto, il voto naturalmente alle politiche, che dovrebbero essere a scadenza naturale della legislatura, quindi nella primavera del 2018, e su Mediaset naturalmente è la vicenda che la vede opposta a Vivendi, che tra l'altro sappiamo è anche coinvolta naturalmente nella questione del controllo di Telecom. Libero, Napolitano falindiano, qui il riferimento è all'intervista che non abbiamo neanche letto ieri, ma così, perché appunto sono interviste che guardano al passato e così, se devo segnalarvi qualcosa, preferisco segnalare qualcosa che guarda al futuro. In ogni caso, questa intervista all'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che diceva che la guerra in Libia l'aveva voluta Berlusconi, e ora ieri poi ci sono state tutte le reazioni. Da qui Libero, Napolitano falindiano, lite da cortile fra Giorgio e Silvio sulla Libia. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì. Ha ragione, grazie agli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. È vero, definire Giuliano Pisapia appartenente a un partito di estrema sinistra è un po' troppo, però diciamo che è il partito più a sinistra che c'è in questo momento in Parlamento, che è il famoso SEL, Sinistra Ecologia Libertà, con il quale era stata eletta Laura Boldrini, e poi, come sottolinea un altro ascoltatore, per precisione, non eletta alla presidenza della Camera, ma scelta come presidente della Camera, perché così si fa: i presidenti delle due Camere vengono appunto scelti dopo le elezioni. La chiamo apposta il presidente perché a me fa abbastanza sorridere questa sua battaglia linguistica e il desiderio di essere chiamata la presidente o la presidenta, perché neanche la presidentessa, ma la presidente, e quindi così un po' scherzosamente continuo a usare il maschile. Torniamo alle prime pagine dei giornali. Ci mancava quella del Giornale, che è abbastanza in linea con quella che abbiamo visto di Libero. Si riferisce alle dichiarazioni di Napolitano fatte ieri in un'intervista a Repubblica. Napolitano coniglio. L'ex presidente riscrive la storia. Fu Berlusconi a volere la guerra in Libia, ma i fatti lo smentiscono. E la replica dello stesso Berlusconi è stata: è una ricostruzione interessata. E su questo, perché anche lui mi fa parecchio ridere quasi sempre, vi leggo la rubrica di Andrea Marcenaro sul Foglio. Era una rubrica quotidiana che si chiama Andrea's Virgin, e oggi scrive questo. Prima domanda: può esistere qualcuno così fuori di testa da credere che si possa prestare fede all'acqua minerale Uliveto Rocchetta quando promette che tu te la bevi e ti passa la stipsi, guarisci dall'osteoporosi, previeni la calcolosi urinaria, tieni i reni puliti, ti si illumina la pelle, ti lavi tutto dentro e diventerai prima o poi un ereditiero? Nessuno. Seconda domanda: per quale astrale congiunzione un uomo saggio come Napolitano spara tutte quelle balle sull'origine della partecipazione italiana ai bombardamenti in Libia, rischiando di passare alla storia col titolo di presidente Uliveto Rocchetta? Il Manifesto, caos colmo, un gioco di parole come spesso fa il Manifesto, quindi non caos calmo ma caos colmo. La foto è quella di una nave con i migranti, un gommone di una ONG che li salva, sullo sfondo una nave della Marina Militare. Il titolo naturalmente a quello che sta succedendo nel Mediterraneo. In prima pagina però anche la multa a Trenitalia, ne avete sentito parlare anche nel GR, per sostanzialmente per come, secondo l'antitrust, che ha condannato Trenitalia a pagare 5 milioni, tutto sommato nella home page di Trenitalia, dove si può dove si possono comprare i biglietti o comunque consultare l'orario ferroviario, vengono in qualche modo nascosti le tariffe più convenienti. Come ogni mattina guardiamo un attimo anche le prime pagine dei quotidiani stranieri, di alcuni quotidiani stranieri. Tra l'altro ringrazio Tobias Piller, il corrispondente dall'Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che mi ha scritto e mi ha detto: se riesco posso mandarti al mattino molto presto in PDF la prima pagina appunto della Frankfurt. E così l'ho ricevuta stamattina, l'ho stampata. In prima pagina c'è tutta la questione che ruota intorno al diesel, alle malversazioni fatte dalla Volkswagen, ma forse anche da altre case automobilistiche tedesche, truccando i dati sulle emissioni dei motori diesel. In prima pagina anche, tra l'altro, sulla questione diesel c'è un articolo che segue la cronaca e poi anche un editoriale, un commento di Martin Grob che si intitola Keine einfachen Wahrheiten, cioè non ci sono verità facili, per dire che sarà comunque difficile fare luce su questa questione, anche perché nel frattempo è anche emersa la possibilità che le case automobilistiche tedesche facessero un cartello tra di loro, cosa naturalmente proibita dall'antitrust tedesca e dall'antitrust europea. In prima pagina però anche la questione delle ONG e anche in questo caso si cerca di capire che cosa è successo. La nave sequestrata, la prima nave sequestrata perché ha violato il nuovo codice di comportamento dell'ONG, è una nave tedesca, da qui anche l'interessamento appunto del principale quotidiano tedesco. Il Washington Post invece si occupa di Neymar e definisce l'accordo sappiamo, centinaia di milioni di euro per vendere Neymar al Paris Saint-Germain, che è controllato dal Qatar, e definisce questo accordo. Negli Stati Uniti, tra l'altro, sono abituati ad accordi multimilionari per giocatori di baseball o di basketball, ma esiste anche il cosiddetto salary cap, cioè il limite ai salari, che abbiamo cercato di introdurre anche qui senza molto successo, pare. Il titolo è It's Beyond Insane, è oltre la follia pagare. Perché pagare un giocatore più di mezzo miliardo di dollari? E la risposta è prestige, questa è l'interpretazione del Washington Post. Le Figaro invece apre sui nuovi sondaggi su Macron. Macron continua a perdere consensi, purtroppo questo è forse il destino di chi deve attuare delle riforme che in campagna elettorale magari sembravano delle promesse, si guardava soltanto all'effetto a lungo termine, però nel breve termine tutte le riforme degne di questo nome, e abbiamo visto ieri come in Francia sia stato dato il via libera alla legislazione d'urgenza sulla riforma del lavoro, che sarà sicuramente avrà dei vantaggi, ripeto, a medio-lungo termine, ma nel breve sarà dolorosa, come per certi versi sono tutte le riforme del lavoro. E quindi Emmanuel Macron fa i conti appunto con la perdita di consenso. Questo probabilmente avrà anche un effetto, primo, sulle elezioni del Senato che si tengono in settembre, qualche giorno, il giorno prima del vertice fissato con il governo italiano per la questione Fincantieri. Il Guardian invece torna su Trump. Sapete che è stato convocato un grand jury, che è il primo passo per ottenere informazioni più approfondite. Un giudice deve farsi un'idea di una questione per decidere poi se avviare una vera e propria procedura. Sono tanti i dubbi che ruotano intorno alla figura di Trump in questo momento. C'è il cosiddetto Russiagate, che coinvolge anche il figlio, ma ci sono anche c'è anche la questione della sanità, perché il Senato, che è comunque il Congresso, che è comunque controllato dal partito di Trump, il Partito Repubblicano, ha respinto la riforma dell'Obamacare ed è stato uno smacco per Donald Trump, e adesso si attendono le nuove mosse, anche se, come dice anche il Washington Post e gli altri giornali americani, anche il Senato americano e in generale le istituzioni politiche di Washington stanno per andare in vacanza. El País titola, come potete immaginare, sulla morte del campione di motociclismo Nieto, di cui avete sentito anche nel nostro GR. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali. Questo grande caldo di cui continuiamo a parlare, perché così si sta abbattendo qualsiasi recente e non recente record, naturalmente spinge i consumi di elettricità legati ai condizionatori, ma anche per esempio ai frigoriferi, che hanno bisogno di più elettricità per mantenere le temperature prefissate. Quindi elettricità, il caldo spinge i prezzi. Boom di domanda per condizionatori e frigoriferi, centrali in affanno. C'è l'elenco dei prezzi di acquisto appunto dell'elettricità. L'articolo è a cura di Jacopo Giliberto, che è il nostro grande esperto di questioni energetiche. In gennaio era di 72,24. Siamo passati per esempio in aprile a 42,86 e in agosto questo prezzo medio è stato di 85,17. Vi dicevo in profondità, trovate a pagina 13 questa prima, i dati sulle prime uscite per Monte dei Paschi. Saranno appunto una prima tornata, coinvolgerà 1200 persone, ma entro il 2021 dovranno lasciare 4800 addetti. Puntata numero 5 dell'agenda del professionista, una delle iniziative estive del Sole 24 Ore. La puntata numero 5 è dedicata soprattutto alle successioni. La tutela per i disabili passa dall'atto pubblico, dopo di noi, il sostegno all'inclusione, il patrimonio dedicato e gli scambi fiscali. Vi dicevo l'intervista di Laura Boldrini al Corriere della Sera. È un'intervista concessa a Monica Guerzoni e io vi confesso che non riesco a capire fino in fondo le risposte, che sono, a mio modo di vedere, molto ambigue. Perché le chiede Monica Guerzoni: Pisapia deve candidarsi o può guidare insieme da fuori? Perché questo è uno dei nomi, gli ipotetici nomi della nuova formazione di appunto sinistra, che potrebbe essere guidata da Pisapia. E la Boldrini risponde: una volta chi era capo di un partito stava in Parlamento, adesso non è più così necessario, sarà lui a decidere. Quindi no, sostanzialmente non risponde. E lei si candida? In questi 5 anni a Montecitorio abbiamo messo in atto cambiamenti importanti. La Camera ha risparmiato 350 milioni di euro, ha aperto le porte a 1.200.000 persone, ha prestato attenzione a questioni sociali, parità di genere, periferie, problemi del web. Mi sono occupata dei problemi del paese, non solo del funzionamento dell'istituzione. Mi piacerebbe continuare nell'impegno politico, ma ovviamente ci devono essere le condizioni. Anche qui non si capisce, si candida o non si candida? Vuol dire che entrerà in lista solo se Pisapia compirà il miracolo dell'unità? Perché il miracolo di cui lei parla si possa realizzare, non basta una persona sola, serve l'impegno di tanti. Io sono pronta a fare la mia parte. Cioè? Ultima domanda, lo scontro con Di Battista, ne abbiamo parlato ieri, l'esponente del Movimento 5 Stelle, che appunto ha avuto l'ennesimo scontro con il presidente della Camera, Laura Boldrini. Lo scontro con Di Battista ha riacceso il dibattito su come lei interpreta il ruolo di presidente. Le hanno dato della mamma e della maestrina. Accuse maschiliste? Non l'avesse mai chiesto Monica Guerzoni. Risposta: io ho il dovere di far rispettare il regolamento ed è quello che faccio. Chi parla di mamma o di maestrina come i soli ruoli femminili da cui accettare richiami dimostra la propria mentalità. Punto, non devo aggiungere altro. Facciamo un'escursione nella leggerezza, perché a pagina 21 del Corriere della Sera trovate un'intervista divertente, almeno secondo me, a Gianluca Vacchi. Sapete che appartiene a una famiglia di importantissimi imprenditori del Nord, ma lui si dedica ad altro sostanzialmente. Ha trovato questa seconda vita, lo dice lui stesso. Quando ha compiuto 50 anni ha deciso che doveva godersi la vita, ha aperto numerosi account sui social network, ha 10 milioni di follower su Instagram, 1.600.000 su Facebook. Posta balletti, mi aveva colpito una fotografia di lui che fa colazione in una piscina con un vassoio galleggiante, e davvero è divertente. E quindi lui si racconta e dice anche, scopriamo anche, che ogni mattina si iberna per qualche minuto, perché gli hanno detto che questo potrebbe allungargli la vita. E il virgolettato è: io funziono perché con me vita virtuale e reale coincidono. Attenzione, voglio eccellere in tutto, da sciatore battevo Alberto Tomba. E va bene, quindi sappiamo adesso che anche aspettiamoci quest'inverno un po' di video su, maybe su, forse su scorribande sciistiche di vacchi. Ci lasciamo però un attimo per una pausa sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Devo una risposta a un ascoltatore che ha mandato un messaggio al 349-238-6666 in che unità di misura il prezzo di acquisto dell'energia è in euro per MWh, quindi per milioni di kilowattora. Torniamo alle pagine interne dei giornali. Divertente questa, abbiamo detto che Laura Boldrini ipotizza che Spisapia diventi quello che fa il miracolo, cioè che unisce due forze di sinistra, l'ha detto lei, che si tratta di miracolo, tra l'altro due forze di sinistra entrambe lontane dal PD, quindi già dovrebbero avere questo in comune, però viene considerato un miracolo anche questo se Pisapia ci riuscisse. Pisapia speranza, nuovo partito a ottobre, lo dice anche Repubblica, un colloquio sigla la pace e rilancia, sapete che c'era stata tutta la polemica perché Pisapia aveva osato dare un abbraccio affettuoso di saluto a Maria Elena Boschi, che invece è un esponente del PD, e quindi siglata la pace, e rilancia il progetto di una convention per decidere nome, simbolo e candidato, che potrebbe appunto essere il nome insieme. Vi segnalo poi invece dalla Repubblica, abbiamo parlato di caldo, di cambiamenti climatici, c'è anche un allarme umidità. Entro il 2100, qualcuno può dire beh è molto lontano, sì, però comunque ci saranno degli esseri umani ancora sicuramente nel 2100 sul pianeta, milioni di persone a rischio, ondate di calore se fallisce Parigi, l'accordo sul clima che era stato raggiunto a Parigi quando era ancora presidente Obama e che poi Donald Trump ha detto di non voler rispettare. Il sud-est asiatico sarà l'area più colpita. Ancora una volta vi segnalo, anche perché la prima pagina è spettacolare, questo inedito racconto di Corto Maltese che si intitola Equatoria, che trovate da oggi all'interno di Repubblica. Intervista a Silvio Berlusconi a pagina 5 della Stampa di Francesco Bei. Il titolo è: Parigi deve capirlo, non è più il tempo di Colbert e del Re Sole. Il riferimento è alla vicenda di Fincantieri, abbiamo detto. Attenzione però, perché un altro ascoltatore, sempre sulla questione dell'unità di misura dell'elettricità, mi segnala che MWh sono megawatt ora, quindi milioni di watt megawatt ora, non milioni di kilowatt ora. Ok, quindi megawatt ora. Dicevo, l'intervista a Silvio Berlusconi sulla Stampa, si parte dalla vicenda Fincantieri, che è forse quella più importante che ci vede contrapposti, che vede il governo italiano contrapposto a quello francese, poi sullo sfondo c'è anche quella di Telecom e quella di Mediaset, che è quella che più direttamente coinvolge Berlusconi. Sull'intervista concessa ieri a Repubblica dall'ex presidente della Repubblica Napolitano, che diceva che l'intervento in Libia nel 2011 fu sostanzialmente deciso da Silvio Berlusconi, che all'epoca era premier, dice il tempo, Berlusconi dice con una certa grazia, se vogliamo, il tempo è galantuomo, quindi sostanzialmente chi sa la verità sa, e io non mi metto a polemizzare. Poi in realtà qualche polemica ieri c'è stata, però questa è diciamo il scriptamanent di oggi sull'opinione di Berlusconi. Vi segnalo poi invece sempre dalle pagine interne dei giornali una notizia che trovo abbastanza divertente, perché riguarda un partito che ha usato internet in un modo molto utile per la sua crescita, e sicuramente c'è l'utilizzo di internet virtuoso alla base della crescita così rapida del Movimento 5 Stelle, che ha colpito in Italia ma ha colpito anche molti osservatori all'estero. Però anche la piattaforma Rousseau, quella messa a punto da Casaleggio Casaleggio e ora gestita dal figlio Davide Casaleggio, e persino questa è vulnerabile agli hacker. E il Messaggero racconta: Movimento 5 Stelle, attacco hacker. Talmente forte è stato questo attacco che sarebbe a rischio il voto online e i nomi dei finanziatori. Beppe Grillo ha dichiarato: denunciamo questo hacker, questa violazione, in ogni caso è stato colpito il vecchio sito, il sistema ora è più sicuro. Poi vi segnalo, non tanto per la notizia in sé, anche se comunque è una notizia, ma perché c'è uno schema credo utile a tutti, a pagina 13 questo fatto di cronaca, che Lady Inzaghi ha salvato una bambina con la famosa, che stava rischiando di soffocare, con la famosa manovra Heimlich, che è quella che si usa, il nome viene dal medico che l'ha inventata, che si usa quando qualcuno ha ingerito qualche cosa che gli ostruisce le vie respiratorie, e quindi c'è proprio lo schema su come fare. Effettivamente potrebbe capitare a tutti di trovarsi in di vedere qualcuno che ha bisogno di questo tipo di aiuto, magari ne abbiamo sentito parlare ma non sappiamo esattamente come farlo, e questo schema è molto utile. Pagina 13 del Messaggero. Abbiamo parlato insomma almeno due volte l'abbiamo citato, Ruanda negli ultimi giorni, c'era anche la controcopertina di Giampiero Musumeci al GR, è una questione che a me ha sempre colpito tantissimo, naturalmente quella del genocidio del 1994, ieri nella Foga ho addirittura detto omicidio anziché genocidio, un ascoltatore me l'ha subito fatto notare. Si calcola che ci siano stati 800.000 morti in 100 giorni, ma qualcuno pensa che siano stati forse addirittura 1 milione. Quello che colpisce, e da qui anche sentivo Musumeci che diceva il senso di colpa della comunità internazionale, quello che colpisce è che i caschi blu c'erano, hanno visto, ma non si è potuto fare niente per fermare questo genocidio. Ora però il paese che sta andando al voto, effettivamente passati tutti questi anni, sembra rinascere, e tanto che il reportage di Matteo Fraschini Coffi a pagina 3 dell'Avvenire, vittime e carnefici insieme nel Ruanda che ora cresce. L'Avvenire torna anche sulla terribile questione del caporalato nelle nostre campagne, e in particolare mi colpisce quella nelle campagne del Lazio e quelle in Puglia. La Chiesa contro i caporali. Il vescovo Crociata, che è il vescovo di Latina, per vincere il lavoro nero urge un impegno educativo della coscienza dei credenti, perché naturalmente a questi braccianti sottopagati e che vivono quando non lavorano in condizioni veramente non si sa nemmeno come definirle, perché non ci sono bagni nei capannoni in cui vivono, spesso non ci sono neanche dei giacigli degni di questo nome, e naturalmente c'è qualcuno che gli dà lavoro, e da qui l'appello del vescovo appunto alle coscienze di tutti. A proposito di sanità, invece, una bellissima inchiesta che trovate sul Giornale alle pagine 18 e 19 sul cosiddetto turismo sanitario, cioè sui paesi dove si può andare e dove molte persone stanno andando per curarsi. In Italia abbiamo un'eccellente sanità pubblica, ancora naturalmente tranne i casi di mala sanità, ma sappiamo anche che negli ultimi anni è in corso una privatizzazione, tra l'altro diversa da regione a regione, perché la sanità è materia regionale di competenza delle regioni, per questo strano federalismo che abbiamo in Italia, e stanno cambiando molte cose, molte persone, chi se lo può permettere si fa un'assicurazione privata, e alcuni appunto vanno a curarsi all'estero. Gli insospettabili, i top della sanità a basso costo e altissima qualità. Secondo l'inchiesta del Giornale c'è questo boom di turismo medico a Panama, Messico, Colombia, Costa Rica e Malesia. I dottori sono preparati, le strutture all'avanguardia e i costi appunto inferiori. Questa è forse la notizia più triste che ho letto oggi, ed è quella della situazione della ricostruzione dopo il sisma. Ormai è passato quasi un anno dal sisma che ha cominciato a colpire il centro sud del nostro paese, soprattutto il centro Italia, a partire dal 24 agosto. Mi ricordo eravamo anche noi qui in diretta, poi ci sono state tutte le altre scosse, e il bilancio, appunto a quasi un anno, è che è stato rimosso appena l'8% delle macerie. La ricostruzione post sisma è un flop. Molti dei 131 comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto sono ancora sepolti dai detriti. Consegnate solo 326 delle 3620 casette di legno ordinate, quindi meno del 10%. Poi un fatto di cronaca che anche in questo caso mi colpisce molto, perché credo che questo tipo di interventi si sottovaluti parecchio, sono gli interventi per la riduzione dello stomaco, dell'intestino, che sono una specie di estrema ratio per i grandi obesi, sono interventi con dei rischi enormi. Io spero che a tutti i pazienti vengano correttamente illustrati, perché poi ci sono, appunto, succede anche questo, cioè a 23 anni Elica Colombatto, che era stata operata al Policlinico Ponte San Pietro di Bergamo, poi è stata rioperata altre tre volte per le conseguenze e alla fine è morta per le conseguenze di questo tipo di interventi. Ultimissima notizia da Libero: come salvarsi dall'orso, anche qui ispirandosi ai fatti di cronaca, se per caso andate in posti, in parchi naturali dove sapete che ci sono anche gli orsi, è la loro casa, lasciamoli in pace, non andate a tormentarli, stendetevi a terra, faccia in giù, mani dietro la testa. Lui non attacca, difende i suoi cuccioli e il suo pranzo. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi e ci sentiamo domani per la rassegna del sabato.